si scenda la terra, le manifestazioni sono vittime dello stesso sistema che tende a rendere eventi mediatici preconsumabili da folle, che tende a rendere eventi mediatici paradossalmente creati da folle. Che non esiste, ma è ovunque che non esiste, perché ovunque e ha deciso che il mio antagonismo per questo autunno inverno sia retorico o quantomeno comico. Il mio parlare di chimista retorica, il mio parlare di chimista retorica, il mio parlare di chimista retorica, il mio parlare di chimista retorica. Percentuali con un buon margine di prevedibilità, non siamo un mondo almeno finché non ce ne accorgiamo, non siamo un mondo almeno finché non arrossiamo, la mia sovversione ha un buon margine di prevedibilità, siamo slogan riproducibili fino alla morte, uno slogan dura meno di un oggetto, fa durare meno un oggetto. È la mia sazietà, è la mia sazietà, è la mia sazietà, è la mia sazietà, è la mia sazietà, è la mia sazietà, è la mia sazietà.